Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Il problema delle ronde, che già a dire ronde si fa peccato, nel senso che il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno, che poi sono i responsabili del decreto antistupro che ha istituito, legalizzato, istituzionalizzato, come volete voi, le ronde, dicono che non bisogna usare questa espressione ronde. In realtà è un tema veramente difficile, incandescente. Perché? Perché adesso io vi darò alcuni esempi di giudizi su questa faccenda delle ronde, prima di cominciare la nostra chiacchierata, la nostra discussione, che dimostrano che spesso ormai in Italia non ci sono proprio più i termini per affrontare insieme, in modo convergente, un problema. È una fatica riuscire a fare questa operazione ormai immane, gigantesca, perché insomma è esplosivo il dissenso su certe questioni in particolare. Il Ministro dell'Interno, che abbiamo avuto qui ospite e col quale abbiamo parlato anche di queste questioni, respinge a priori l'etichetta di ronde. Leggo da una cronaca del Riformista, e dice: con il decreto antistupro, Maroni che parla, abbiamo messo regole precise per porre fine alle ronde fai da te. Il modello è quello della sicurezza integrata, nel quale anche i cittadini hanno un ruolo, ma le loro iniziative sono ben inquadrate. Possono infatti essere utilizzate dai sindaci solo dopo che il prefetto e il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza hanno deciso come farlo. Sembrerebbe l'istituzione di un volontariato di pace che, in accordo con le istituzioni, si limita, come dice Maroni, a segnalare alle forze dell'ordine centri, ingorghi, diciamo, di disagio sociale dal punto di vista della sicurezza dei cittadini. Lì spacciano droga, lì in quel parco ci sono le siringhe che possono fare male ai bambini che giocano, c'è un centro di delinquenza e di degrado sociale. Ecco le segnalazioni delle ronde. Ma ecco, vi do un piccolo scampolo di opinione pubblica di sinistra, una lettera a Repubblica di Peppe Sini, Centro di Ricerca per la Pace Viterbo, e dice: le ronde mi ricordano i servizi d'ordine, le rondini, mi ricordano la milizia volontaria per la sicurezza nazionale del regime fascista. Le ronde volute dal governo sono quelle di Borghezio, Borghezio è il deputato della Lega che tutti citano sempre per dire quanto può essere estremista la Lega. Però più che dare botte, Borghezio è uno che ha preso botte, spesso e volentieri. Una volta in treno è stato oggetto di un piccolo linciaggio. Comunque, le ronde volute dal governo sono quelle di Borghezio, dice Peppe Sini, quelle dei servizi d'ordine picchiatori, quelle della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, quelle dello squadrismo di sempre. Si può uccidere anche a mani nude, perché il problema è che queste ronde cosiddette sarebbero disarmate secondo il decreto legge. Bastano i pugni e i calci a strappare una vita. Sappiamo tutti a cosa servono queste milizie, anche se non indosseranno le camicie brune, nazismo, fascismo, squadracce. Insomma, veramente è difficile mettersi d'accordo anche su come cominciare una discussione, ma noi naturalmente ci proveremo. Silvia Ballestra è una scrittrice sensibile, orientata a sinistra, è una columnist dell'Unità, è una scrittrice che racconta l'Italia di oggi, impegnata anche a capirla, l'Italia di oggi, con opinioni spesso anche molto forti. Vorrei chiederle, Ballestra, se è d'accordo con Peppe Sini. A me quella lettera sembra un po' così, come si può dire, apocalittica, quella lettera in cui parla delle ronde come camicie brune. Lei cosa ne dice? Intanto buongiorno. Non so, vorrei mettere avanti, posso, la mia condizione di donna che dovrebbe essere protetta dagli stupri girando di notte da sola. Beh, dico subito che se incontrassi una ronda, probabilmente formata, credo, tutta da uomini, sicuramente insomma politicamente orientata, come abbiamo visto in questi giorni, perché poi determinati partiti ci stanno mettendo le mani sopra, a parte che nasce la proposta da una parte ben precisa, diciamo che mi metterei molta paura, Ecco, quindi... Quindi lei dice, io come donna, come cittadina, dovrei essere tutelata da questa idea della sicurezza integrata, come dice il Ministro dell'Interno, invece a me le ronde fanno paura perché sono una roba leghista, dura, maschile... Fuori controllo. Ma ecco, però io vorrei farle questa domanda. Per carità, naturalmente è un'opinione più che lecita, è la stessa opinione. Michele Serra fa lo spiritoso... Da donna, no, ho capito. Questa cosa nasce contro gli stupri, tra l'altro, no? Per proteggere noi donne. No, io però quello che volevo chiederle è questo: ma ci sono elementi di fatto che, che la spingono a pensarla così? Cioè, in Italia è dal 95-96 i primi esperimenti sono stati a Voghera, che esistono bene o male delle ronde civili, appunto, auto-organizzate. Sono nate in ambiente leghista, sono nate in quel nord in cui un partito in particolare, ma insomma, i partiti fanno parte della vita democratica, non è che adesso li possiamo condannare a prescindere. Un partito, la Lega, che ha preso i suoi voti, che si è arroccato nelle sue valli, che è sceso a Milano, che... Questo partito con la sua cultura, che possiamo non amare, che possiamo considerare meschina, xenofoba, però questo partito ha stimolato questa roba. Poi ci sono state anche contaminazioni con sindaci, persino con amministratori di sinistra. Comunque, dov'è la ronda camicia bruna? C'è stata la ronda che lincia, la ronda che fa del male, la ronda che... Cioè, si è avuta una concreta... O è solo una grande paura, magari legittima, dico Ballestra? Non lo so, ci sono già le forze dell'ordine che dovrebbero presidiare il territorio. Francamente a me questo volontariato, che poi alla fine non è manco un volontariato, perché vediamo che stanno venendo pure fuori i soldi per sostenerli, quindi non è vero che poi non costerebbero niente, quindi non, a questo punto decade anche... No, no, ma che a lei non piaccia l'idea, Ballestra, che a lei non piaccia l'idea, l'ho capito, no, certo. Mi... No, ma questo è evidente. Io le chiedevo un'altra cosa, se al di là del fatto che non le piace l'idea, c'è una concreta testimonianza nella cronaca e nella vita italiana del fatto che queste ronde degenerano, sono un fattore di violenza civile, non aiutano affatto la sicurezza pubblica, ma appunto sono piegate addirittura a una cultura, interessi di parte, e sono il braccio armato della xenofobia e dell'intolleranza. Questi giudizi così forti, le camicie brune, non sono prematuri? Oppure bisogna mettere le mani avanti? Perché? Non so, delle squadracce in azione le abbiamo viste in questi ultimi giorni, no? Il fatto di stranieri presi, ammazzate o addirittura, insomma, a cui è stato dato fuoco, quelle lì erano squadracce. Quelle non erano ronde, però. Infatti, cioè, adesso bisogna non erano volontari per la sicurezza. Quelle erano reazioni fobiche. In anche crisi. Queste sono reazioni fobiche, anche le ronde sono reazioni fobiche. Vabbè, io naturalmente speravo che lei mi dicesse qualche cosa in termini di fatti, però... Non vorrei che fosse fobici contro fobici, sono i fobici della sicurezza che dicono facciamo le ronde, scendiamo in strada, il volontariato, la sicurezza inquadrata, e poi si mettono le giubbe, le cose, chi c'ha il fazzoletto verde, eccetera, e poi c'è il controfobico, e quello che dice qualunque iniziativa di volontariato per la sicurezza è una mascalzonata, è un atto di squadrismo. Non pensa che bisognerebbe sorvegliare un po' anche le nostre reazioni, il nostro... Adesso non voglio fare il furbo, Ballestra. Sì, ma infatti non scendo in strada per menare le ronde, mi limito a criticare e a osservare, che mi sembra un provvedimento del tutto inutile e anche pericoloso. Fra l'altro non lo dico solo io, lo dicono anche altre persone da altre parti. Vabbè. Per cui, insomma, no, lei usa un linguaggio più umano, più diretto, meno ideologico, effettivamente. Si dice io, però camicie brune, vabbè. Comunque c'è Filippo Penati, credo, in linea, vero? Il presidente della provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno presidente Penati. Buongiorno. Penati, lo dico per gli ascoltatori, ma è conosciutissimo, in particolare nel nord è straconosciuto, è un amministratore, viene dai DS, dal PC, ha una vecchia cultura repubblicana, diciamo, non è sospettabile, insomma non lo vedo alla guida di un manipolo di camicie brune, di una marcia su Roma, non è un fascista, non è uno squadrista, non è nemmeno un leghista, però è uno che dice ma stiamo attenti perché il tema della sicurezza rischierà di travolgere e rendere perpetuamente minoritaria una sinistra che non lo sappia interpretare e capire. E io come amministratore, nel mio ruolo istituzionale, il rapporto tra cittadini e sicurezza, voglio mediarlo anche col volontariato. Sbaglio? Ho riassunto bene la sua posizione? No, assolutamente corretta, dottor Ferrara, credo che sia proprio questo. Tra l'altro, dentro anche esperienze che già le amministrazioni stanno facendo, hanno fatto in questi anni. Io credo che ci sia una preoccupazione comune di dare una risposta, ma questo riguarda anche settori più avveduti del centrodestra, quindi non ne faccio una questione solo centro-sinistra, centrodestra, di dare una risposta che sia la più estensiva possibile sul tema della sicurezza, dando la possibilità anche ai cittadini di organizzarsi per il controllo, per il presidio del territorio, evitando che ci siano eccessi e che passi il concetto della giustizia fai da te. Io colgo nel provvedimento del ministro Maroni questa preoccupazione, cioè quella di istituzionalizzarne dentro alcune possibilità queste forme di partecipazione dei cittadini, escludendone altre. Quindi lei dice è il contrario, il provvedimento del ministro tende a inquadrare, a legittimare, a istituzionalizzare un fenomeno che altrimenti potrebbe diventare, è questo. E anch'io che sono di principio contrario alle ronde, dal punto di vista così, credo che invece vada percorso questa cosa in modo da poter dare una risposta che sia socialmente sostenibile, che sia utile per i cittadini e che non contenga il rischio di una deriva della giustizia fai da te o pericoli ancora maggiori di balordi o esagitati che vanno in giro a farsi giustizia, ecco, pensando di essere degli sceriffi del Far West. Presidente Perati, lei si mette contro voci importanti del suo mondo. Repubblica ieri con un articolo di Renzo Guolo ha sparato contro queste ronde, con argomenti naturalmente rispettabili, legittimi. Ha detto, ma scherziamo, qui si sta snaturando lo Stato democratico perché si incrina il principio del monopolio legittimo nell'uso della forza da parte del potere pubblico. E naturalmente molte voci, in particolare su Repubblica, anche Adriano Sofri oggi ha scritto un piccolo articolo proprio dedicato, diciamo, alle posizioni come la sua, dice una simile enormità e alcuni dirigenti del centro-sinistra esitano. Perché esitano? Lasciamo stare, dice Sofri, quelli che lo fanno per paura di perdere altri voti. Non si finisce mai di perdere voti e di assomigliare all'avversario. Il motivo profondo del turbamento del balbettio sta nel fatto che le ronde sono una parodia del volontariato e il volontariato è un nome sacro del centro-sinistra. Cioè, Sofri denuncia appunto questo rovesciamento di significati. Siccome sono cose volontarie, voi pensate che siano buone. No, non sono buone. Questo è cattivo volontariato. Questa è una roba che non ha niente a che vedere col volontariato solidale. E dice non esitate, schieratevi contro. Ecco, lei è contro molte voci. Adesso ho citato soltanto la critica di Sofri, ma appunto potrei citare Michele Serra o citato Renzo. Cioè, a sinistra è molto impopolare la sua posizione, se ne rende conto? Me ne rendo conto e anche un po' incompresa, devo dire, sì. Non voglio fare la vittima di quello che non è capito, perché probabilmente non mi sono spiegato io. Ma il punto è che in linea di principio io condivido tutti i principi che vengono enunciati, poi faccio l'amministratore, poi faccio un altro mestiere diverso da quello di Sofri, che domani o dopodomani si occuperà di un altro tema su Repubblica e potrà fare sempre l'anima bella su Repubblica, potendo scrivere e dandoci consigli anche molto interessanti e molto utili e spunti e punti di vista che io leggo e tengo presenti con grande attenzione. Ognuno di noi, chi fa il mestiere dell'amministratore, tutti i giorni deve dare delle risposte che stanno dentro la carne delle contraddizioni della gente. Non può dirgli leggi l'articolo di Sofri se hai paura a uscire di casa, se sei preoccupato. Non puoi dire guarda che c'è una questione di principio, bisogna anche qualche volta mediare, entrare, come dire, con i gomiti dentro le cose che non sono sempre proprio così piacevoli. E lei pensa davvero concretamente che istituire e come dire portare a livello di prefettura, comitato dell'ordine pubblico, eccetera, eccetera, integrazioni volontarie degli apparati di sicurezza non armate, eccetera, eccetera, possa aiutare, cioè dare più sicurezza alle comunità e rispondere al bisogno di sicurezza della gente che un amministratore come lei sente? Lei pensa che è concretamente utile questo provvedimento? Io credo sia utile per un certo coglie un certo obiettivo, non è utile naturalmente dal punto di vista del fare sicurezza. Il fare sicurezza e il contrasto alla criminalità è compito degli apparati, certo, dello Stato, carabinieri, polizia, finanza, certo. Proprio perché considero la sicurezza un diritto dei cittadini, considero specularmente il fare sicurezza un dovere dello Stato. Quello che se può rasserenare questa cosa, cioè se può creare un clima di maggiore distensione rispetto al clima di percezione dell'insicurezza, io credo che questo si possa. Adesso si possa sentiremo fare. Marzio Barbagli, ma però posso chiederle una cortesia di chiarire bene la mia posizione, perché sennò rischia di essere. Certo. Io credo che vadano evitate le ronde di cittadini anche volonterosi, ma che poi rischiano di essere esercitati. Io coglierei quel pezzo che su cui insiste molto anche il ministro Maroni, che è quello di utilizzare i carabinieri in congedo e i poliziotti in congedo, che sono persone che hanno una grande esperienza, che se sono disponibili, come sono disponibili? Lei consideri che nella sola Milano ci sono 45-46 associazioni di carabinieri in congedo territorialmente definite. Se con queste si aprono dei rapporti di collaborazione e se ci sono 3-4 carabinieri che stanno in un giardino pubblico e controllano il territorio, poi se io li chiamo presidi volontario, se qualcuno li chiama ronde, ma alla mamma è che poi parleremo anche con appartenenti a questi che presidi. Che cambia da questo punto di vista? E se il progetto sicurezza è titolare, è il comune che controlla questa cosa, che quindi dice io ho un bisogno di sicurezza in questi termini e con questo tipo di collaborazione, io non ci vedo un pericolo, cioè aiutiamo i sindaci a dare una risposta anche rispetto a questo bisogno. Va bene, la lascio Presidente Pirandi, la ringrazio moltissimo, so che poi lei a un certo punto dovrà anche andarsene, devo andare ora, ecco, benissimo, se non le dispiace. La ringrazio perché ha precisato bene la sua opinione. Una breve risposta a Silvia Ballestra, che immagino sia un'elettrice di sinistra, comunque una persona che Impenati vede comunque un punto di riferimento, insomma, ecco, magari lei ha da obiettare qualcosa. Ma sì, se parliamo di percezione, forse bisognerebbe lavorare anche un po' a smontare questa percezione che è un bisogno indotto e creato anche da tanta informazione pompata in una direzione sola e che se quindi non ha poi un riscontro vero nella realtà, perché tante cifre e tanti indicatori ci dicono per esempio che alcuni reati sono diminuiti. Beh, lo stesso, cioè, Presidente del Consiglio, lavoriamo sulla percezione. Presidente del Consiglio ha detto che i reati sono appunto diminuiti. Infatti, senta, allora, lei vive a Milano? Lei vive a Milano? Sì, io vivo a Milano. Dove? È una zona semicentrale, abbastanza calda, diciamo. Ecco, e invece io esco tranquillamente di notte e questa paura non ce l'ha. E questa percezione non ce l'ho mai avuta, no. Bene, grazie. Adesso la pubblicità e poi il professor Barbagli è stato così cortese da attendere, ma è poi alla fine, diciamo, l'esperto e la persona dalla quale attendiamo la risposta così forse più importante, decisiva. E nel prossimo blocco sentiremo anche Michela Fanti, volontaria di Genova Sicura, che è una ronda di area, diciamo così, leghista, così viene venduta, e Giovanni Cereda, che invece è dell'Associazione Nazionale Carabinieri, appunto sarebbe il rondista buono da un punto di vista di sinistra, insomma, ecco, volontari per il presidio civile in contatto col comune. Ecco, poi sentiremo la rondista cattiva e il rondista buono. Scusate, io semplifico, ma è per aiutare una conversazione che non ha pretese scientifiche. 800 24 00 24, le ronde. Parliamo con Michela Fanti, 37 anni, volontaria di Genova Sicura. Michela, mi sente? Non c'è. Allora parliamo con Giovanni Cereda, Associazione Nazionale Carabinieri, che insieme al Comune di Genova organizza volontari per il presidio civile. C'è? Giovanni? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, lei sarebbe il rondista buono, cioè il rondista che non ha grilli per la testa, che non nasce in un ambiente di partito, lei è un ex appartenente alle forze dell'ordine, Associazione Nazionale Carabinieri, e dovrebbe in contatto con il sindaco, con il prefetto, con le istituzioni assicurare una integrazione della repressione del crimine fatta dalle forze dell'ordine su base volontaria, è così? Sì, dunque intanto noi rifiutiamo l'etichetta di rondisti perché non è una cosa che ci appartiene. Noi come Associazione Nazionale Carabinieri abbiamo nel tempo creato dei nuclei di protezione civile e di volontariato sul territorio nazionale. Nello specifico su Genova c'è un accordo quadro con il comune, con l'amministrazione comunale, che ci vede impegnati in attività di osservazione e di assistenza. Quindi noi svolgiamo un'attività che presuppone la presenza fisica di nostri volontari per alcuni giorni della settimana, in alcuni orari, in alcune determinate zone della città che sono un attimino più a rischio, e la nostra è un'attività solo di osservazione, di assistenza all'eventuale persona che ha necessità e di segnalazione alle forze di polizia. E questo, signor Cereda, sarebbe quello che prevede il governo nel suo decreto, no? Più o meno. Lo facciamo da anni e quindi siamo in anticipo su quello che sono le determinazioni del governo attuale. Invece però, per esempio, adesso prima ho citato voci di sinistra, abbiamo ascoltato anche Silvia Ballestra, eccetera, che ha un atteggiamento duro ma meno apocalittico, però abbiamo sentito Squadracce, Camice Brune, eccetera. Una voce di destra, Teodoro Buontempo, vecchio leader della destra romana, naturalmente una destra antileghista, e questo conta anche nel suo giudizio politico, dice: le ronde sono un disastro. Dice: ma ci pensa, intervista al Riformista, a quel che accadrà alla prima ronda aggredita? Sarà necessario armarli, dice Buontempo. E come? Si rischia di innescare una spirale di violenza, questa è la verità. E poi parla di sceriffismo, di protagonismo, sono truppe di consenso, corpi dei sindaci, e dice: è quasi peggio delle squadracce degli anni 70. Dice: nemmeno durante il ventennio le squadre hanno ricevuto dallo Stato l'incarico di occuparsi dell'ordine pubblico. Allora io sottolineo, lei ha detto: ma noi esistiamo molto prima del decreto Maroni, facciamo un'azione di presidio del territorio d'accordo col sindaco e col prefetto, rifiutiamo l'etichetta generica di rondisti e siamo dei bravi cittadini che cercano di limitare il crimine e di rafforzare la sicurezza della gente. Però oggi chi fa azione volontaria nel campo della sicurezza incorre in queste scomuniche, in queste condanne apocalittiche. Non si sente un po' a disagio? Sicuramente se mi vengono attribuite le etichette e colorazioni politiche sono a disagio, anche perché la nostra è un'associazione di appartenenti in congedo dell'Arma dei Carabinieri e in quanto tale noi lavoriamo per la comunità, quindi la nostra è un'attività di volontariato. Ma lei condivide questi timori di Buontempo o di gente? Sì, sicuramente, io condivido, infatti nel principio sono contrario a una libertà di ronda e quindi che un qualsiasi cittadino si armi, si organizzi e faccia queste cose. Posso capire che... Ecco, ma il decreto del governo non dice: cittadini, organizzatevi, armatevi e pestate gli extracomunitari. Il decreto del governo dice: cittadini, fate come il signor Cereda, cioè mettetevi d'accordo con ex appartenenti alle forze dell'ordine, fate presidio civile d'accordo con i sindaci e il prefetto. È d'accordo su questo almeno? Sì, su questo pienamente. Il testo del decreto è questo. Esatto, però purtroppo poi vedo che a livello giornalistico che si tende a creare molta confusione e a attribuire ruoli che non sono assolutamente condivisibili. Grazie signor Cereda. Michela Fanti dovrebbe essere in linea, 37 anni, volontaria di Genova Sicura. È diversa dal signor Cereda. Lei, Michela Fanti, la sua esperienza è più tipicamente rondista, no? Lei come ci è arrivata alle ronde? Buongiorno a tutti. Io sono arrivata alle ronde nel settembre 2007. E la nostra è un'associazione di cittadini che Lei è leghista? Io sono leghista. Sì, lo dico senza cattiveria, ecco. Non è per darle un'etichetta, è un partito. Non si preoccupi. Io sono un democratico. Ma va bene. Abbiamo iniziato questo tipo di percorso perché noi nel 2007 nel quartiere di Genova San Pier d'Arena eravamo veramente abbandonati perché c'era una delinquenza allucinante. E abbiamo cominciato questo tipo di lavoro scendendo alla sera non armati, noi l'unica nostra arma è la macchina fotografica. E presidiamo con delle passeggiate perché ronde non si possono chiamare ronde, sono passeggiate. E comunque sia andiamo in giro in collaborazione con comunque i dirigenti della Lega, comunque Deardo Rixi, Bruno Ravera, Davide Rossi, che sono state persone che ci hanno aiutato tantissimo, siamo riusciti comunque a ottenere dei risultati, perché noi con le nostre passeggiate, in collaborazione comunque con le forze dell'ordine, perché collaboriamo con loro, noi non facciamo niente, facciamo delle passeggiate e segnaliamo solo e osservate. Ma lei ecco, senta, lei Michela, ci sono, lei legge i giornali, guarda la televisione, magari qualche volta avrà visto una trasmissione di Gerd Lerner. Allora, c'è un pregiudizio durissimo. Cioè, questo tipo di roba si chiama ronda ed è la violazione del dogma democratico, per cui la repressione del crimine e in genere l'uso della forza spetta esclusivamente alle forze dell'ordine. Dicono, sì, va bene, voi cominciate con l'osservazione, la passeggiata, la collaborazione con la polizia, ma poi magari vi aggrediscono, dovete rispondere. Non è mai successo che ci hanno aggredito, e comunque noi abbiamo, come le ripeto, abbiamo iniziato questo tipo di iniziativa, questo tipo di lavoro, perché comunque non avevamo nessuna risposta dalle istituzioni, perché noi prima di iniziare questo percorso abbiamo comunque, ci siamo rivolti comunque le istituzioni, almeno per quanto riguarda Genova, su polizia, carabinieri, vigili, comune. Ho capito. Lei ha fatto un ritratto molto, molto fedele, la ringrazio molto, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro anche voi. Silvia Ballestra, questa voce di Michela Fanti non mi sembra la voce di una camicia bruna. Ma mentre parlava la signora mi veniva in mente, sì, belle le passeggiate, così la sera usciamo in gruppo, facciamoci un giro, diamo uno sguardo un po' alle strade. Sa, quando Penati poi sgancia 250.000 euro per sostenere queste cose, però mi viene da pensare che poi diventano un piccolo centro di potere, dispensatore anche di soldini, di bei soldini, e che quindi andando avanti così, diciamo, si trasformano in un'altra cosa, non sarà più solo una passeggiata, no? Però qui c'è un po' di sì, c'è un po' di cattiveria, però, secondo me, perché voglio dire, io non posso negare che Michela, che ha parlato prima, registrasse un problema vero, perché dovrebbe così inventarsi questa funzione? Non c'è l'assalto allo Stato della Lega. Forse a San Pier d'Arena c'era un problema di sicurezza, di bisogno di rassicurazione della comunità. Se le fanno in questo modo, come lei, come Giovanni Cereda, adesso siamo incocciati forse. Tutti e due i rondisti erano in fondo rondisti buoni, nonostante che uno sia... Non so, non mi pare che... Cioè, obiettivamente, anche Penati va bene, vorrà confermare il suo blocco elettorale di voti, eccetera, ma non so. Barbagli, Barbagli, professor Barbagli, guardi, anche a lei rivolgo la domanda, diciamo, non da esperto, ma da osservatore... colto e direi la persona che conosce meglio i dati del sistema criminale e del sistema di repressione anticrimine in Italia. Queste testimonianze dal mondo delle ronde non sono rassicuranti? Dunque, io distinguerei, parlando appunto del decreto antistupro da lei citato all'inizio, se queste cosiddette ronde, per fortuna il decreto antistupro non parla di ronde, parla di associazioni tra cittadini non armati, sono pericolose, come tutti i miei amici, persone stimatissime della sinistra dicono, lei ne ha citati alcuni, ma certo. Anche Gerd Lerner ha scritto un articolo molto duro. Certo. Questa è la prima domanda a cui hanno già risposto in molti dei partecipanti. La seconda è se sono utili e che cosa segnalano il fatto. Dunque, io non ho elementi in questo momento per pensare che siano pericolose, leggendo, quindi le mie sono reazioni diverse, ma non mi baso solo sugli interventi di stamani, mi baso sul testo dell'articolo 6 e anche se, come dire, questo non attenua, ma aspettiamo il decreto di attuazione del Ministro dell'Interno, che deve stabilire i requisiti per far parte dell'elenco, no, di queste associazioni tra cittadini. Ricordo, cioè, il problema è che questo spiega questa conflitti ideologici, anche questa confusione Mi riconoscevo in quello che lei diceva all'inizio, la difficoltà talvolta di parlare autonomamente quando ci sono così forti conflitti tra le parti politiche, ma appunto esistono delle associazioni volontarie che non hanno nulla a che fare con le cosiddette ronde padane. Ce n'è una famosa a Bologna che si chiama Corpo delle Pattuglie Cittadine, che esiste, da quello che sappiamo, dal 1830, che secondo me ci aiutano a capire anche in parte il problema, perché appunto ricordo, di questo non si è parlato, che queste associazioni volontarie di cittadini non armate, talvolta invece armate, erano il modo in cui in tutta Europa, prima della nascita della polizia moderna, si cercava di ridurre e di controllare la criminalità. Il Corpo delle Pattuglie Cittadine bolognesi, che appunto non è nato da leghisti perché precede di un secolo, svolge ancora ora tutte le sere questa funzione. Eppure guardi Barbagli, senta Manuel da Roma, che obiezione dura che fa. Manuel? Sì, buongiorno. Sì. Lei è tedesco, è un cittadino... Sì, io sono cittadino tedesco. E, volevo... E vive in Italia da la discussione su un piano più storico, diciamo. Abbiamo visto 60-70 anni fa in Germania un sviluppo che è stato quello che è stato. E è nato in un momento di incertezza economica e oggi ci vediamo con la crisi economica, una discussione enorme intorno ai stranieri in Italia, e io credo che questa democrazia in questo momento sta vivendo un momento di sofferenza che è molto pericoloso. Lei dice fine anni 20, inizio anni 30, in Germania grande crisi economica di Weimar, eccetera, esatto. Insicurezza. Ma secondo lei questo tema dell'ordine pubblico, appena lo si evoca, porta inevitabilmente all'idea che poi alla fine insomma si consuma il tessuto democratico, come avvenne in Germania 70-80 anni fa? E questa è la sua diagnosi? Questa è la mia teoria. Io, visto chi propone questa discussione intorno alle ronde e che trova un terreno molto fertile in questo momento, è un segno per me che c'è un forte spostamento verso la destra in Italia. Ho capito, va bene, questa è una valutazione molto, molto politica, molto, molto, diciamo quasi da opinionista politico, ma la trasmissione ha dato forse qualche elemento, io non so, adesso dopo le strade in diretta, io vorrei anche passare la telefonata di Sara da Roma, un'altra che ha un'esperienza concreta di ronde, non vorrei che noi parlassimo di una cosa simbolica, la politicizzazione dell'ordine pubblico e l'aggressione populista al primato costituzionale dello Stato nella repressione del crimine, e quindi evochiamo il fascismo, il nazismo, appunto le camicie brune, e poi in realtà siamo di fronte a fenomeni completamente diversi. Ecco, Sara da Roma, 800 24 00 24, stiamo parlando delle ronde, stiamo cercando di capire se siamo alla vigilia della Macht Ergreifung, cioè dell'avvento del nazismo attraverso la mobilitazione antidemocratica dei cittadini all'insegna della xenofobia e della sostanziale, diciamo, anarchia che precede poi la dittatura, oppure se siamo nell'ambito di un fenomeno meno grave, meno drammatico, meno apocalittico. Ecco, anche se naturalmente sono da considerare legittimi tutti i segnali di allarme sociale e civile che vengono lanciati. Sara da Roma, Sara. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, io volevo semplicemente riportare un'esperienza vissuta personalmente, dove facevo io stessa parte della ronda. E, nel senso, la situazione era questa: noi vivevamo in un quartiere residenziale che cominciò ad essere vittima di continui furti. Chiedemmo l'intervento delle forze dell'ordine, ma ovviamente il territorio era troppo ampio e quindi non era controllabile. Semplicemente tutti quanti, le persone del quartiere, abbiamo organizzato del controllo durante le ore notturne, durante le ore della mattina, che hanno portato a scoraggiare praticamente i tentativi di furto. Questa esperienza nasce da 5 anni e attualmente viviamo in una situazione assolutamente tranquilla, non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema, non c'è stata nessuna esaltazione. Io ricordo negli anni 70 a New York c'erano anche allora i volontari, c'era una situazione della sicurezza molto degradata con certe trombette, con delle specie di piccoli estintori rossi con una tromba pronti a suonare l'allarme, che passeggiavano davanti agli edifici. Insomma, esperienze di sicurezza volontaria. L'ho detto poi prima il professor Barbagli, che non so se è ancora al telefono. No, non c'è ancora. Esperienze di sicurezza volontaria se ne sono avute, fanno parte dell'apparato civico da sempre. Barbagli citava addirittura una struttura, una compagnia di sicurezza degli anni 30. Ballestra, anche questa storia di Sara da Roma, adesso sembra, guardi, Ballestra, sembra che io abbia organizzato in regia, assumo su di me il pregiudizio che hanno gli altri su di me. No, ma non è così. Le assicuro, guardi, la Franca Fossati e Gloria Guerrera non hanno pregiudizi come ho io, diciamo, in favore dello Stato e della sua capacità. Ma quando io porto più volte durante il giorno e la notte il cane giù e faccio il mio giro di ronda attorno all'isolato, e se vedo qualcosa col telefono chiamo la polizia e i vigili, sono già una ronda? Ma insomma il principio... perché potrei farmi dare dei soldi, magari, non so, trovo un lavoro nuovo, no? Visto che poi esco spesso durante il giorno. Vabbè, questa adesso è un'altra questione. Lei insiste molto su questo tema del denaro, non credo che sia... Insomma, comunque qua appunto a provincia di sinistra di Milano... Però allora decidiamoci. Decidiamoci, o è Totò e Peppino e la ronda di notte... Allora, o è quella roba lì che... Infatti, Ferrara, o è quella roba lì oppure un'altra cosa... Ma è una cosa un pochino... parlare forse più... Ma è un pochino incosciente buttarla su Totò e Peppino. Questa è una cosa seria, cioè che ci sia... Io non sono per gli allarmi bestiali, ma che ci sia la microcriminalità che crea dei problemi, eccetera, questa è una realtà sociale, insomma, non solo nel nord. Non credo che si possa... Riccardo da Genova, pronto? Mi sente? Certo che la sento. Benissimo, saluto anche il suo ospite. Niente, volevo riportare un'esperienza vissuta in prima persona, non da ronda, assolutamente non, di un avvenimento che è accaduto qui a Genova. È successo, una signora è stata aggredita e sono stato quasi testimone del fatto, perché sono arrivato pochi minuti dopo e ho aiutato la signora. Ho preso semplicemente il mio telefonino, ho chiamato le forze dell'ordine, che sono state efficientissime. Sono rimasto al telefono, nell'arco di pochi minuti sono arrivate due pattuglie, ed ecco che secondo me la funzione, che viene un po' tutto strumentalizzato, queste ronde, queste cose, secondo me la presenza di alcune persone, poi chiamiamole come vogliamo, che siano di destra, politicamente di appartenenza, quello che sono, ma secondo me avrebbe una funzione di prevenzione, perché io, ripeto, non appartengo a niente, a nulla, ero lì, ho semplicemente fatto una telefonata, quindi armato di telefonino, o meglio ancora che di macchina fotografica, perché poi i dettagli che abbiamo dovuto dare alle forze dell'ordine erano proprio minimi, non siamo riusciti a dare una descrizione. Quindi secondo me si sta un po' troppo strumentalizzando questa idea delle ronde. Capisco che può suonare un po' male la parola ronda, però chiamiamolo presidio, chiamiamolo come vogliamo, ma poi secondo me... E poi perché suona male la parola ronda? Questo non lo so, la ronda di notte, il sereno che fa la ronda nel ronda civismo perché... spagnolo. Ma forse perché la parola ronda dà un po' l'idea di questi gruppi che camminano per la strada, che chissà cosa devono fare. A me fare. Non piace la parola squadra, per ovvie storiche ragioni, ma la parola ronda non... Ma... Sentiamo Lino da Treviso, va? No, okay. È caduta la linea, oddio, oggi appena prendo una linea cade la linea. Lino da Treviso c'è? No, sì, eccolo qua, Lino. Sì. Pronto? Eccomi, pronto. Lino. Sì. Pronto? Eccomi, parli pure. Pronto? Lino, parli pure, se no finiamo su Blob, il Blob della radio. Non può parlare Lino? Mi sente? Pronto? No, non mi sente. Pronto? E allora sentiamo. Lino, mi sente? Eccomi qua, la sento, sì. Oh, parli caro. Buongiorno, io volevo dire la mia. Allora, lei parla da Treviso, quindi è sospetto già, eh? No, io lavoro a Treviso, ma sono giornalista ma è sospetto, chi parla da Treviso gli mettiamo l'handicap come al golf. Io abito a Pordenone ma lavoro in provincia di Treviso. Ah, andiamo già meglio. Ecco, allora le dico una cosa, sono d'accordo con quel signore di Genova, quell'ex carabiniere, perché è giusto che loro facciano quel lavoro lì, perché loro hanno vissuto da persona molto seria. Ma signori, guardate, guardate questi giorni, i nonni vigili cosa stanno facendo davanti alle scuole? Questi giorni c'è il carnevale, l'associazione carabinieri in congedo che fa parte della protezione civile, in questi giorni di carnevale cosa sta facendo? Sta facendo della sicurezza intorno a quando si fa le sfilate di carnevale, e non mi sembra che faccia qualcosa di fuori dal normale. Ci sono le forze dell'ordine, sappiamo come sono, ma ci sono questi signori che ben vengano, fanno, ma è inutile chiamarle ronde con tutta, a me di politica non mi interessa, però è giusto che questi signori ci tutelano dalla sicurezza, che vedono qualcosa, segnalano e basta, non esiste altre cose, armare, non armare, si prendono botte, ma questa è tutta fantascienza, mi creda, signor Ferrara, è tutta fantascienza politica. Grazie. Silvia Ballestra, facciamo un'ipotesi, io adesso sono sicuro che ci sono, per esempio io ho visto un famoso documentario molto sulla storia di Padova, no? Il muro di Padova, quello eretto dal sindaco di sinistra per isolare il ghetto del crimine, eccetera. E lì c'erano ronde, quella era una situazione quasi di guerra, sembrava la striscia di Gaza, ed era veramente spaventosa. E lì, diciamo, invece no, c'era tutta un'altra cosa, poi andavano al poligono, sparavano, non è mai successo niente di drammatico, però era una cosa violenta, diciamo, di una certa brutalità politica. Però c'è anche tutta questa dimensione Ballestra, perché lei non pensa che sia giusto anche riconoscerla, così come io riconosco che ci sono rischi, certo che ci sono rischi quando un decreto del governo, diciamo, legalizza istituzionalizza una partecipazione dei cittadini al tema della sicurezza e dell'ordine pubblico, i rischi ci sono, però c'è anche la possibilità che invece tutto si risolva un po' come i nonni vigili, insomma, no? Il volontariato inquadrato che dà una mano, gente che dà una mano, è possibile o no questo? Insomma, io ci vedo una bella differenza tra il nonno vigile che ferma le macchine quei 10 minuti dell'uscita da scuola e invece la squadra che va in giro per il quartiere di notte a caccia degli stranieri e di chi ti fa paura. C'è una bella differenza. Ma questa squadra che va a caccia degli stranieri però è nella nostra mente, nelle nostre fobie. Dove sta? Chiedo, dove sta? Lei l'ha vista, ci sono casi nel suo quartiere a Milano, cioè... Cioè, gli stranieri vengono cercati nei loro rifugi da squadre di italiani xenofobi che li vogliono bastonare, oppure parliamo così? Cioè, questo voglio chiedere. Vabbè, allora torniamo alla dimensione Totò Peppino di prima, cioè quello col telefonino. Totò Peppino, una dimensione comunitaria. Cioè, in sì, cui... Allora, i rischi ci sono, non lo so. Sì. Qui a Milano siamo stati, per esempio, bitumati da telecamere, sempre per la nostra sicurezza. Adesso le telecamere non bastano più, non basta più la videosorveglianza, si passa ad altro. Allora, qui mettiamoci d'accordo. Lei è contraria alle videocamere? Abbastanza, sì. Sì, certo, sì, sì. Sono contraria a questa sorveglianza così capillare. Sì, certo. Vabbè, la sua è una posizione molto radicale, diciamo, di avversione alle politiche di ordine pubblico che vanno al di là delle normali indagini. Beh, è legittimo. Non servono nulla, non è che queste cose hanno risolto. I soldati per strada non hanno evitato gli stupri che ci sono esattamente come prima. Quindi, cioè, io ci sento anche, non so, una beffa dentro, no? Che poi la sinistra, come avviene qui appunto a Milano con Penati, con la sua decisione di finanziare le ronde, corra dietro a questo tipo di politiche della destra, poi fondamentalmente, insomma, è questo che non mi sta bene. Cioè, vorrei una politica alternativa. Va bene Ballestra, la ringrazio molto, abbiamo fatto questa chiacchierata civile, ognuno resta della propria opinione naturalmente, la mia è che bisogna allarmarsi meno di quanto si sta allarmando, anche se naturalmente insomma le perplessità ogni volta che si tocca il tema della sicurezza, dell'ordine pubblico in modo diciamo non ortodosso, non pienamente ortodosso, sono comprensibili. Grazie a tutti voi, grazie a Gloria Guerrera, Franca Fossati in redazione, Alessandro Chiappini, Giorgio Mattei in regia, la linea Gianluca Nicoletti con Melog 2.0, ci sentiamo domani. Baci.